Sull'IMU e Letta annuncia il piano privatizzazioni. La serie di tornado investe il Midwest degli Stati Uniti, almeno 6 le vittime, disperso un bambino di 10 anni, case distrutte e auto ribaltate. In Francia un uomo è entrato nella sede del giornale Libération e ha aperto il fuoco con un fucile a pompa, ferito un fotografo. L'uomo starebbe in questo momento nel centro di Parigi e avrebbe sparato anche davanti alla sede di una banca. La manovra taglia 330 milioni di contributi per l'autotrasporto e il settore si mobilita proclamando un fermo di una settimana per dicembre. Ne parliamo tra poco col sottosegretario ai trasporti Girlanda. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Si apre una settimana molto intensa con le questioni politiche ed economiche che dominano la scena. È la settimana nella quale il Senato dovrà dare il via libera alla legge di stabilità in una versione che si presume semidefinitiva. È quella che poi dovrà ricevere il via libera anche dalla Camera. Ma per questa stessa settimana si ipotizza l'approvazione del provvedimento che dovrebbe cancellare anche la seconda rata IMU, mentre il Presidente del Consiglio Letta annuncia che entro venerdì ci saranno le prime mosse sul fronte delle privatizzazioni con la presentazione di un piano. Dal lato politico tiene banco ancora la vicenda di Anna Maria Cancellieri, che sembra essere vicina alle dimissioni. Prima di parlare di tutto questo però ci vogliamo collegare con Parigi per parlare di quello che è successo questa mattina e che in realtà sta ancora succedendo. È una vicenda in evoluzione. Questa mattina un uomo è entrato nella sede del quotidiano Libération e, armato di un fucile a pompa, ha sparato, ferendo gravemente un fotografo, ma a quanto pare quest'uomo sarebbe ancora in giro nel centro di Parigi. Ci colleghiamo dunque con Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore dalla capitale francese. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, qual è la situazione al momento? Ma la situazione è ancora molto incerta, nel senso che non c'è, si sa ancora molto poco su quanto sta avvenendo e non si sa neppure se la persona che ha sparato questa mattina nella hall di Libération e che ha sparato anche alla Défense sul piazzale antistante la sede della Société Générale sia la stessa persona. Sicuramente è in corso una caccia all'uomo, il Ministro dell'Interno ha provveduto a proteggere tutte le sedi dei giornali, delle televisioni, dei mezzi di informazione parigini con delle forze di polizia, ed è in corso appunto la ricerca di questa persona. Apparentemente potrebbe essere effettivamente la stessa che ha sparato nei due luoghi, anche se sono due luoghi molto distanti tra loro e due luoghi molto diversi tra loro. Marco, tra l'altro venerdì un uomo armato aveva fatto irruzione anche nei locali di una TV a Parigi, minacciando alcuni giornalisti e scappando. Immagino che il collegamento... C'è questo precedente, in effetti. C'è questo precedente. Venerdì mattina, venerdì scorso, in mattinata, un uomo armato con un fucile era entrato nella sede della TV di informazioni BFM, che è la principale televisione di informazione francese, aveva minacciato le persone presenti nella hall ed era scappato senza però sparare. Ora appunto non si riesce a capire fino al momento in cui c'è stato la sparatoria a Libération, si è nato che i due episodi potessero essere collegati e che quindi ci fosse qualcuno che avesse nel mirino le fonti di informazione, i mezzi di informazione francesi. In realtà i colpi che sono stati sparati davanti alla sede della banca, della Société Générale, alla Défense, rendono questo scenario un pochino meno credibile. E il problema è che al momento ulteriori informazioni non ci sono. La polizia sta cercando in tutta la città questo uomo armato, sempre che si tratti della stessa persona, e per il momento altre informazioni non ce ne sono. Grazie a Marco Mussanè, che nonostante le poche informazioni che ci sono in realtà ce ne ha date tante. Naturalmente vi aggiorneremo o nel corso di questa puntata di Effetto Giorno o naturalmente quando avremo informazioni. Veniamo dunque a tutte le vicende di politica e di politica economica di queste ore, iniziando proprio dalla politica economica. We need stability, political stability first of all. This is why... Abbiamo bisogno di stabilità politica prima di tutto, e il 2014 sarà un anno decisivo per l'Italia. Queste sono le parole del Presidente del Consiglio Enrico Letta ad un convegno organizzato dal Financial Times. Letta ha anche detto che in settimana il governo presenterà un piano di privatizzazioni che verrà discusso oggi al Ministero dell'Economia. Ma facciamo il punto su tutto questo con il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo. Sì, buongiorno Simone, lo anticipavi questa mattina la platea di un importante quotidiano internazionale, poco fa qui la cerimonia per i 90 anni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, tutte occasioni per il Presidente del Consiglio Letta per intervenire sui maggiori temi di attualità, le fibrillazioni dei partiti che appoggiano l'esecutivo di larghe intese, poi il momento economico del Paese e le prossime decisioni di Palazzo Chigi. Quanto al primo tema, la scissione nel Popolo della Libertà, la nascita di Forza Italia e del nuovo centrodestra, secondo Letta da oggi il governo è più stabile proprio grazie alla decisione delle cosiddette colombe, non sono in competizione con Renzi, poi Letta sul dibattito della premiership nel Partito Democratico. Sul fronte economico il Presidente del Consiglio ha di fatto difeso la legge di stabilità annunciando l'arrivo in settimana di un piano per le privatizzazioni, il 2014 sarà l'anno della ripresa per il nostro Paese, così ancora Letta, il debito diminuirà, ricerca e sviluppo le priorità dell'attuale governo di larghe intese, intervento qui al CNR e infine del presidente di Confindustria, interventi, investimenti nella ricerca secondo Squinzi sono fondamentali per il rilancio dell'economia. E da Roma è tutto. Grazie a Vincenzo Miglietta. Resta in primo piano intanto il caso Cancellieri con le ipotesi di dimissioni del ministro che sembrano farsi sempre più concrete. Elisabetta Fiorito, quali sono le notizie? Buongiorno. Buongiorno, sì, secondo indiscrezioni del Financial Times il ministro della giustizia Anna Maria Cancellieri sarebbe sul punto di dimettersi prima del voto sulla mozione di sfiducia in Parlamento, ricordiamo, presentata dal Movimento 5 Stelle e che dovrebbe essere votata mercoledì. Tutto ciò poi dopo che uno dei candidati alla segreteria del PD, Pippo Civati, ha annunciato di voler presentare una sua mozione di sfiducia individuale al guardasigilli, invoca chiarezza e chiede agli altri candidati alla segreteria dei democratici di sostenerla. Intanto Palazzo Chigi conferma la fiducia al ministro, la posizione non cambiano, ribadiscono fonti governative, si valuterà però con attenzione eventuali novità. In questo clima, vertice in procura a Torino tra i magistrati che indagano sulla Vicenza Fonsai, Vittorio Nessi e Marco Gianoglio stanno vedendo il procuratore capo Giancarlo Caselli, attesa per la decisione dei magistrati che dovranno sciogliere la riserva sulla possibilità di inoltrare a Roma gli atti con l'interrogatorio del ministro e valutare quindi l'ipotesi di falsa testimonianza. Insomma, il caso si ingarbuglia, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, vedremo cosa succederà. Intanto ci sentiamo cosa da dire su questo Stefano Folli. Il punto di Stefano Folli. Il filo che lega il ministro Anna Maria Cancellieri al governo di cui fa parte si è fatto più sottile, forse un po' troppo sottile per reggere. Pressato dai 5 Stelle, condizionato dai suoi problemi interni, il Partito Democratico la difende sempre meno. Anzi, le voci che chiedono le sue dimissioni cominciano a essere numerose, da Renzi a Fassina a Civati. La questione è destinata a risolversi nel giro di poco, massimo un giorno o due, perché la Camera dovrà comunque pronunciarsi sulle mozioni di sfiducia. Ma al di là del merito della vicenda, piuttosto controverso, è chiaro il senso politico di quello che sta avvenendo. Un colpo al governo Letta, alle larghe intese, pur rimpicciolite dalla scissione a destra. E soprattutto un messaggio ostile al Presidente della Repubblica, primo sostenitore del governo e di conseguenza del guardasigilli, come di altri ministri esposti alle polemiche. Indebolire insieme Napolitano e Letta, un obiettivo impensabile fino a qualche tempo fa, ma oggi per qualcuno è a portata di mano. Il Partito Democratico è intanto alle prese con i meccanismi infernali che regolano i congressi locali. Allora, la nostra Narita D'Ambrosio cerca di farci un punto sulla situazione e di raccontarci come funziona. Il congresso del Partito Democratico potrà dirsi concluso solo con le primarie dell'8 dicembre, quelle aperte anche ai non iscritti. Ma prima di quella data dovranno essere completate le tappe precedenti, tappe di un percorso complesso nel rispetto dello statuto del partito approvato nel 2008. Oggi si chiude una di queste tappe, forse la più attesa, il voto dei circoli, quello della base del partito, l'ex sezioni del PC per intenderci, voto arrivato a Roma e il cui esito sarà comunicato nel pomeriggio. Nei circoli si è votato dal 7 novembre fino a ieri, da oggi e fino al 20 si riuniscono le convenzioni provinciali che stabiliranno il numero esatto dei voti per ciascun candidato ed eleggeranno i delegati della convenzione nazionale che il 24 novembre identificherà i tre candidati ammessi alle primarie. Solo tre, quindi uno, Pittella prevedibilmente, dovrà lasciare la corsa. La guerra di cifre a cui stiamo assistendo in queste ore è relativa dunque ai dati che i singoli candidati hanno hanno a disposizione, dati non ufficiali al momento. Gli ultimi, diffusi dai due favoriti, continuano a differire, ma entrambi danno in vantaggio Renzi. Secondo il comitato Cuperlo, su circa 258.000 voti, il sindaco di Firenze risulta al 44%, Gianni Cuperlo al 40,4%. Secondo i dati diffusi dal sito di Renzi, su 250.000 voti, il sindaco di Firenze sarebbe al 47,3% e Cuperlo al 38%. Definitivi sono i dati intanto dei circoli esteri, quelli europei. È stato Renzi a prevalere, anche se di poco, 32,59% per il sindaco di Firenze, 32,25% per Gianni Cuperlo. Annalita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora aggiornamenti su quello che sta succedendo a Parigi, dove questa mattina un uomo ha fatto eruzione nella sede del quotidiano francese Libération, ferendo gravemente un fotografo, e poi avrebbe sparato davanti alla sede di una banca. Da quel che si apprende, un uomo ha riferito alla polizia, notizie di agenzia, di essere stato costretto a prendere in auto l'attentatore alla Défense a Parigi, che si sarebbe poi fatto lasciare sugli Champs-Élysées. Vedremo che cosa succederà. Intanto restiamo all'estero, andiamo negli Stati Uniti, spazzati dai tornado. Non è un mese da tornado novembre, ma è successo e le conseguenze sono gravissime. Almeno 6 morti, numerosi dispersi, centinaia di feriti e poi case distrutte, migliaia di persone senza corrente elettrica. Sono 76, forse addirittura 80 i tornado segnalati nel Midwest, con venti oltre i 110 km orari. 53 milioni di americani sono interessati dall'emergenza e sono sparsi su una decina di diversi stati in cui in queste ore si contano i danni e si cerca di tamponare l'emergenza. Ma l'allarme non è finito. I tornado si stanno spostando verso la costa est. Al momento il più colpito è lo stato dell'Illinois. A Chicago, per il rischio maltempo, ieri sono stati evacuati decine di migliaia di tifosi che assistevano alla partita di football Bears contro Ravens. Due ore dopo, passata l'allerta, l'incontro è ripreso. Prestate attenzione alle previsioni, state a casa se potete, ha ripetuto il governatore dello Stato, Pat Quinn, una richiesta ribadita dalla Casa Bianca, dove Obama segue con attenzione, si dice, i rapporti che arrivano dalle aree colpite. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo nel continente americano, ma ci spostiamo a sud, in Cile, dove si è votato e l'ex presidente cileno ha ottenuto il 45,1% dei consensi per il voto per la presidenza, staccando nettamente la candidata della destra Evelyn Matthei, ferma al 24,8% secondo le prime indicazioni. Si andrà comunque al ballottaggio. Roberto Darin, del Sole 24 Ore, un ballottaggio scontato comunque, no? Sì, un ballottaggio abbastanza scontato. Tanto che la Bachelet pensava di poter passare direttamente, vincere direttamente al primo turno. In ogni caso è una sfida interessante perché è tra due figlie di due generali che ai tempi di Pinochet si sono schierati uno con e uno contro la dittatura, e poi il papà della Bachelet venne ucciso. Ora chi vincerà dovrà affrontare quattro capitoli importanti: scuola, fisco, sanità, previdenza. Il Cile è un paese ricco, uno tra i più ricchi dell'America Latina, ma ancora con forti disuguaglianze. Grazie Roberto Darin, che tornerà ad aggiornarci naturalmente su quello che succede naturalmente in Cile e non solo. Noi ci spostiamo adesso a Dubai, invece, dove dove insomma si parla di industria aerea, industria aerospaziale. Vi abbiamo raccontato e vi racconterà tra poco Mario Platero anche della grande massa di ordini arrivati tanto per Airbus e Boeing. Noi ci colleghiamo con Gianni Dragoni, che da Dubai è appena rientrato. Gianni, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, si è tornato però, curiosamente, noi purtroppo guardiamo il nostro, no? In questa grande massa di ordini arrivati dalle compagnie arabe, insomma, si è detto i soldi degli sceicchi, noi guardiamo al nostro piccolo ancora una volta e a questa maledetta Alitalia. Perché? Perché c'è una vicenda che riguarda Etihad. Ce la spieghi, Gianni? Sì, lo stesso giorno in cui Etihad, compagnia di Abu Dhabi, come Emirates di Dubai, hanno fatto degli ordini record nella storia dell'aviazione, soprattutto Emirates, e la stessa Etihad, che vola già anche in Italia e ha anche degli accordi commerciali con l'Italia, ha fatto una mossa, ha comprato una quota, il 33,3%, di una piccola compagnia svizzera, Darwin, Airline, Darwin che vola anche da Zurigo in Italia e aumenterà i voli l'anno prossimo anche per il nord Italia, e questa mossa sembra, diciamo, andare in una direzione opposta a quella che è un tentativo che sta facendo anche il governo e anche i vertici dell'Alitalia per il piano di salvataggio, cioè di tentare di coinvolgere, di sottoporre a queste compagnie ricche del Golfo Persico, tra cui Etihad, la possibilità di intervenire nella ricapitalizzazione dell'Italia come azionista, cioè per portare soldi, anche parte, ma per portare soldi. Siccome Etihad, che ha già una forza del 29% in Europa nella compagnia tedesca Air Berlin, recentemente è entrata nella compagnia Air Serbia al 40%, non può avere la maggioranza perché è extraeuropea, e ora anche in una piccola compagnia svizzera, tutto questo cosa vuol dire? Una rete con cui questa compagnia di Abu Dhabi cerca di portare traffico da vari punti europei verso i suoi grandi aeroporti, da cui dall'Europa Roma, ma anche Berlino, Düsseldorf, con Air Berlin vola al suo aeroporto principale ad Abu Dhabi. Quindi è una mossa che a mio avviso fa capire come la strategia di Etihad più difficile che possa trovare un interesse, come invece vorrebbe il governo e anche l'Italia, a coinvolgerla nell'operazione di salvataggio, perché ha già diciamo, fatto un'altra scelta. Grazie Gianni Dragoni. Intanto io vi leggo questo titolo: più di 2 miliardi di imposte in agguato. Questo è il titolo del Sole 24 Ore che trovate nelle pagine interne di oggi. Ne parliamo tra un attimo, sentiremo quali sono questi 2 miliardi di imposte in agguato. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Un uomo armato a Parigi ha entrato prima nella sede di Liberation, ha ferito gravemente un fotografo, poi ha sparato davanti alla sede della Société Générale, si sarebbe fatto portare agli Champs-Élysées. Il caso cancelliere è ancora al centro del dibattito, il ministro potrebbe dimettersi prima della discussione sulla fiducia. Settimana importante per la politica economica, la legge di stabilità dovrebbe avere l'ok del Senato entro venerdì, mentre si approntano provvedimenti sull'IMU e Letta annuncia il piano privatizzazione. Una serie di tornado investe il Midwest degli Stati Uniti, almeno 6 vittime, disperse un bambino di 10 anni, case distrutte e auto ribaltate. Vi avevo detto prima della pausa per la viabilità che avremmo parlato di questi 2 miliardi di imposte in agguato. Cristiano Dell'Osta, del Sole 24 Ore, che cosa vuol dire in agguato? Buongiorno, vuol dire che sono imposte previste, già scritte nel decreto che ha rinviato la prima rata dell'IMU e nel disegno di legge di stabilità, sono sostanzialmente imposte che scatteranno se una serie di altre misure non daranno gli obiettivi di gettito previsti. Quindi vuol dire in pratica che se l'IVA sui debiti della PA e se le entrate della sanatoria famosa discussa sulle slot machine non porteranno quello che si è previsto, automaticamente il Ministero dell'Economia potrà intervenire sugli acconti d'imposta, quindi aumentando l'IRES e l'IRAP che devono essere pagate entro il 2 dicembre, oppure o addirittura in abbinata intervenendo sulle accise, che vuol dire sostanzialmente sulla benzina. Tutti i dettagli su queste maledette clausole di salvaguardia li trovate sul Sole 24 Ore oggi in edicola. Grazie Cristiano Dell'Osta, che insieme agli altri colleghi ha lavorato su tutto questo. Noi adesso torniamo ad occuparci del caso Cancellieri. Come sapete ci sono sempre più pressioni sul ministro, soprattutto da parte del Partito Democratico, per le dimissioni. Io saluto Ernesto Carbone, che è deputato del PD. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti. Renziano, allora, lei come la vede? Democratico, diciamo così. Democratico. Vabbè, Renziano, insomma, si può dire, mica una... Io ho votato Matteo Renzi. Non è un'offesa. Abbiamo anche vinto, quindi. Non è un'offesa. Senta, come la vede lei? Ma guardi, io l'ho detto 15 giorni fa, appena uscirono le prime notizie su questa vicenda. Io credo che la Procura di Torino si sia comportata correttamente, credo che non siamo in presenza di reati, almeno alle notizie che abbiamo adesso, però ritengo che il gesto del Ministro sia stata una cosa assolutamente inopportuna per svariati motivi, quindi ho sempre detto che avrei gradito le sue dimissioni, credo che sia, insomma, necessario a questo punto. Ecco. Senta, Civati ha detto che presenterà una sua mozione di sfiducia alternativa a quella del Movimento 5 Stelle, ma anche parallela, per un certo senso, insomma. Voi avete intenzione di fare qualcosa di simile o vi atterrete a quello che deciderà il gruppo del PD? Innanzitutto mi lasci dire che sono contento che Civati la pensi come me, come del resto Cuperlo, perché io quando dissi questa cosa 15 giorni fa fui abbastanza criticato da alcuni esponenti del mio partito, adesso di colpo sono diventati tutti quanti delle mie stesse idee. Dopodiché io quello che penso personalmente l'ho detto un paio di giorni fa, io mi aspetto una proposta dal mio segretario, domani sera abbiamo una riunione dei gruppi del gruppo della Camera, e prenderemo una decisione anche discutendo e magari anche votando all'interno del gruppo. Dopodiché la decisione all'interno del gruppo va rispettata in aula. Mm. E quindi se il gruppo decidesse di votare no alla sfiducia alla Cancellieri, lei si atterrebbe a questo? Ma assolutamente, io ho sempre pensato che un gruppo parlamentare deve vigere la democrazia e deve essere regolato da certi meccanismi. Guardi, si ricorda la mozione Giachetti di qualche mese fa? Noi sulla mozione Giachetti ci riunimmo come gruppo, votammo all'interno del gruppo la mozione Giachetti, io persi quella battaglia, però poi in aula ho votato secondo le direzioni del gruppo, e questo credo che sia necessario per una convivenza di 290 deputati, altrimenti saremmo tutti 290 cani sciolti che vanno per i fatti loro. Grazie Ernesto Carbone, deputato del Partito Democratico, per essere stato con noi e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci a tutti. E noi torniamo adesso a parlare di legge di stabilità, lo facciamo da un angolo particolare, quello che riguarda il settore dell'autotrasporto, che vive una fase di sofferenza e al quale la legge di stabilità va a tagliare una serie di fondi. Se non erro, sottosegretario Girlanda, Rocco Girlanda, sottosegretario dei trasporti, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Sono 330 milioni, no? Quelli che vengono tagliati, destinati al rimborso delle accise dei carburanti, altri fondi, 330 in tutto. Allora, intanto mi faccia fare una cosa che è fondamentale. Io sono molto vicino alle associazioni di categoria e ai trasportatori tutti, perché capisco che in questo momento così delicato per il mondo dell'autotrasporto vedere tagliata sulla legge di stabilità quella che è una risorsa importante, capisco che crea dei enormi problemi, anche se l'esplosiva della crisi ovviamente nel mondo del trasporto, e sto lavorando per risolvere questa situazione. Allora, cosa c'è di nuovo? Di nuovo che per quello che riguarda la legge di stabilità viene previsto un taglio al tetto massimo che ogni anno il governo stanzia per il rimborso degli accise, sono 1.500 milioni di euro. Questo fondo non viene nel gergo tecnico tirato tutto, significa che non tutti gli anni c'è necessità di utilizzare tutta la risorsa stanziata. Oggi il Ministero dell'Economia dice bene, abbassiamo il fondo, non sarà 1.500 miliardi, ma sarà circa 200 milioni in meno. Gli autotrasportatori sono giustamente in allerta totale, stiamo lavorando, comunque la legge di stabilità è... Girlanda, le chiedo molto seccamente, si potrà cambiare secondo lei quella cifra oppure no? Assolutamente sì, c'è l'impegno del ministro Lupi che su mia sollecitazione ha subito scritto al presidente Letta e al ministro Saccomandi. Saccomandi, non è possibile in questo momento ipotizzare un taglio delle accise per come ha messo il mondo dell'autotrasporto, significherebbe con la concorrenza straniera che si fa sempre più forte, con le accise, con il costo dei carburanti che in Italia è altissimo, con il costo del lavoro che è alto rispetto agli altri paesi europei, sarebbe un colpo mortale per il mondo dell'autotrasporto. Preso atto di questo, stiamo lavorando per scongiurare questa evenienza, sempre restando che il bilancio dello Stato è comunque la nostra prima missione, mettere in vantaggio i conti pubblici. Però sono molto positivo in questo. È fiducioso quindi che le risorse, come dire, per restituire quella quota, no, di agevolazioni al settore dell'autotrasporto, riuscirete a trovarlo? Sì, sono molto ottimista in questo. Si tratta di trovare 200 milioni. Sono convinto che nelle pieghe della legge di stabilità, che è entrata in Parlamento in una forma, sarà, immagino, profondamente cambiata, troveremo questi 200 milioni. C'è da dire che c'è già un emendamento presentato, mi sembra, se non erro, il 10.24, in discussione in queste ore alla Commissione di bilancio del Senato, che va in questo senso, cioè la restituzione piena del fondo sulle accise per il settore dell'autotrasporto. Grazie, grazie a Rocco Girlanda, sottosegretario ai trasporti, per essere stato con noi. A chi ci ricorda, questa è un'omissione mia, è un'omissione giornalistica, ci ricordate via SMS il fatto che da lunedì 9 dicembre ci sarà lo sciopero degli autotrasportatori. È esattamente per questo che ne abbiamo parlato, proprio perché gli autotrasportatori hanno proclamato uno sciopero della durata di 5 giorni o di 4, dal 9 al 13 di dicembre. Vedremo che cosa succederà. Intanto ci fermiamo per una pausa e poi ci ritroviamo e parliamo di PDL innanzitutto e di Forza Italia, dei soldi dei partiti, perché sono sempre un elemento interessante e importante, con l'inchiesta di Daniele Biacchesi come tutti i lunedì, e poi ci occuperemo di quote latte, perché c'è una notizia che ci ha incuriosito di oggi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E subito una notizia di poco fa, battuta dalle agenzie, che riguarda ancora la vicenda di Parigi. Da quel che si è appreso, avrebbe anche una borsa piena di bombe a mano l'uomo che questa mattina ha aperto il fuoco nella sede del giornale Libération, ferendo gravemente un fotografo. Naturalmente continueremo ad aggiornarvi appena avremo notizie. In Italia resta il caso Cancellieri al centro del dibattito. Il ministro potrebbe dimettersi prima della discussione sulla fiducia. Ci sono molte pressioni in questo senso, soprattutto dal Partito Democratico. Ed è una settimana importante per la politica economica. La legge di stabilità dovrà avere l'ok del Senato entro venerdì, mentre si approntano provvedimenti sull'IMU e Letta annuncia il piano privatizzazioni. Nella legge di stabilità, tra l'altro, c'è il taglio di 200 milioni dal fondo per le accise per l'autotrasporto. Il settore ha proclamato un blocco dal 9 dicembre. Il sottosegretario Girlanda, poco fa ad Effetto Giorno, dice: sono fiducioso, troveremo quei soldi. Una serie di tornado ha investito il Midwest degli Stati Uniti. Almeno 6 le vittime, disperso un bambino di 10 anni, case distrutte e auto ribaltate. Ed è il momento, come sempre a quest'ora, dell'inchiesta di Daniele Biacchesi, dedicata questa settimana, in questo clima di scissione del centrodestra, ai soldi del PDL. Ora che ci sono due formazioni politiche, Forza Italia e Nuovo Centrodestra, come verranno spartite le proprietà di quello che ormai fu il Popolo delle Libertà? Prendiamo un esempio storico, del tutto tecnico e ovviamente non politico: la fine del PCI e la successiva divisione del partito tra PDS e Rifondazione. Dunque, in quel caso il congresso del PCI di Bologna del 1990 determinò le percentuali di maggioranza 67% e di minoranza 33% suddiviso in due mozioni. E quello successivo di Rimini nel 1991 sancì la scissione sulla base di quelle percentuali. Quindi il 67% delle proprietà del PCI finirono al PDS e il restante a Rifondazione Comunista. Certo, non fu semplice, ma dopo polemiche, carte bollate, tutto venne risolto. Nel centrodestra però l'operazione di spartizione delle proprietà del PDL risulta molto più complicato. Il Popolo delle Libertà nasce nel 2009 dall'unione di Forza Italia di Silvio Berlusconi e Alleanza Nazionale di Gianfranco Fini. Nel 2010 Fini se ne va dal partito, cacciato, si dice, da Berlusconi, e realizza Future Libertà con scarsi consensi elettorali. I beni di Alleanza Nazionale ammontano a 55 milioni cash, un patrimonio di 70 immobili stimato in 170 milioni, totale 230 milioni di euro. Questo denaro è finito nella cassaforte della Fondazione AN. Oggi molti pretendono la spartizione di quei quattrini. E poi ci sono i soldi del Popolo delle Libertà, che restano tutti a Forza Italia, perché la cassa è di Silvio Berlusconi. Il cosiddetto Nuovo Centrodestra si ritrova oggi con un gruppo parlamentare tra Camera e Senato modesto, con 0 euro in cassa, senza alcuna proprietà direttamente riconducibile al gruppo. Ma Forza Italia non sta meglio. Ci sarebbero almeno 100 milioni di euro di debiti nei conti di Forza Italia, soldi usciti fino ad oggi dal portafoglio di Silvio Berlusconi. Questo disavanzo, a livello nominale, è tutto sulle spalle della Fondazione Forza Italia, ma tra i componenti dell'organismo figurano anche Fabrizio Cicchitto e Roberto Formigoni, che da sabato pomeriggio sono passati interamente al Nuovo Centrodestra. Gli altri sono Ignazio Abrignani, Simone Baldelli, Paolo Bonaiuti, Sandro Bondi, Renato Brunetta, Rocco Crimi, Raffaele Fitto, Gregorio Fontana, Giancarlo Galan, Stefania Prestigiacomo, Daniela Santanchè e Denis Verdini. Spetterà dunque a loro, insieme a Silvio Berlusconi, sbrogliare l'intricata matassa economica. Abbiamo pochi minuti per parlare in quest'ultima parte, prima della viabilità e poi di America 24 con Mario Platero, di quote latte. Perché? Perché oggi ci ha incuriosito una notizia. È arrivata un'accusa ai funzionari ministeriali dell'AGEA che avrebbero sbagliato un algoritmo, chissà quanto volontariamente, secondo il quale succede che il limite massimo di età per le mucche da latte, il limite massimo di età di produzione di latte, è passato da 120 a 999 mesi, ossia 82 anni di età. Questo naturalmente ha comportato degli errori nei calcoli. Ne parliamo con Roberto Moncalvo, che è presidente nazionale di Coldiretti, tra l'altro eletto 3 giorni fa, innanzitutto complimenti, come è naturale che sia, e la saluto, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, che cosa ci dice di questa storia, Moncalvo? Ma intanto la vicenda delle quote latte è una vicenda molto vecchia, è iniziata ormai 30 anni fa, e quello che è importante dire oggi è che noi abbiamo la stragrande maggioranza degli allevatori, e quindi la quasi totalità dei 38.000 oggi rimasti, che ha sempre avuto grande fiducia nello Stato e ha investito moltissime risorse per rispettare le regole delle quote. Ora, se veramente i conti fossero sbagliati, la prima cosa che dobbiamo tenere in considerazione è che ci sono tutti questi allevatori che hanno pagato. Allora, la prima questione è che vanno restituiti quasi 2 miliardi e mezzo di euro a questi allevatori che hanno versato multe a questo punto non dovute e acquistato quote non necessarie. Insomma, la partita delle quote è una partita veramente vecchia, quello che è importante è avere assolutamente attenzione alla stragrande maggioranza degli allevatori che hanno sempre versato e acquistato le quote per rispettare le regole, dimostrando di fare sacrifici credendo nello Stato. Se i calcoli fossero sbagliati, che cosa farete? Una class action? Sicuramente ci muoveremo per fare in modo che i diritti della stragrande maggioranza degli allevatori che hanno investito e hanno fatto sacrifici per rispettare le leggi dello Stato abbiano la dovuta attenzione, il dovuto rispetto. È un'azione legale ipotizzabile? Adesso insomma è presto per dirlo, è importante però far prevalere il principio per cui noi abbiamo la stragrande maggioranza degli allevatori che ha rispettato le regole, e questi devono essere i principali allevatori che devono avere l'attenzione continua. La ringrazio, grazie a Roberto Moncalvo, presidente nazionale di Coldiretti. Insomma, non abbiamo avuto il tempo fisico di riassumere bene la vicenda, ma un po' la ricorderete: l'Italia ha sforato più volte le quote, ricevendo quote imposte dall'Unione Europea. Imposta dall'Unione Europea, ricevendo 4 miliardi di euro di sanzioni, di cui una parte a carico dello Stato. A quanto pare, alcuni di questi calcoli, in notizia di queste ore, sarebbero stati sbagliati e avrebbero portato a una sovrastima del parco bovini da latte italiano. Come vedete, vecchie vicende che ritornano. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E come avete sentito, qualche problema con la viabilità, ma insomma non è questa la notizia. La notizia in primo piano in queste ore è ancora quella che arriva da Parigi, dove un uomo ha aperto il fuoco nella sede del giornale Libération, ferendo gravemente un fotografo, poi ha sparato di nuovo davanti alla sede di una banca, si sarebbe fatto portare negli Champs-Élysées, ma soprattutto, da quel che si apprende, avrebbe una borsa piena di bombe a mano. La vicenda Cancellieri ancora al centro del dibattito. Il ministro, a quanto si sa, potrebbe dimettersi prima della discussione sulla fiducia, o quantomeno ci sono molte pressioni da questo punto di vista da parte del Partito Democratico. E nelle questioni politiche entrano anche le questioni economiche. Settimana nella quale il Senato dovrebbe chiudere la partita sulla legge di stabilità, che poi andrà alla Camera. Il governo dovrebbe approvare il provvedimento che cancella la seconda rata IMU, e Letta nel frattempo ha annunciato un piano sulle privatizzazioni. Una serie di tornado ha investito il Midwest degli Stati Uniti, almeno 6 le vittime, disperso un bambino di 10 anni, case distrutte e auto ribaltate. E adesso è il momento, come sempre a quest'ora, di Mario Platero con America 24. America, America, America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Severe storms hit much of the nation's midsection. 5 morti, forse 6, una cittadina, Washington in Illinois, distrutta, case rase al suolo, vetture, camion per aria. Questi i danni provocati da una serie di tornado che si sono abbattuti ieri nel Midwest, colpiti anche l'Indiana, l'Ohio. Ora questi tornado si sono trasformati in violente tempeste, già arrivate fra l'altro qui a New York. Il vento, devo dire, è molto forte, c'è già una pioggia battente, ma il peggio è passato, non dovrebbe lasciare molti danni. Un bilancio definitivo ancora impossibile, però ci si interroga. Beh, dopo il disastro delle Filippine, dopo questi tornado, è possibile che ci sia un collegamento fra disastri naturali e cambiamenti climatici? Quando avremo un quadro più completo torneremo su questo interrogativo. Intanto, in questa America afflitta da disastri naturali, da una crisi di leadership del presidente Obama, oggi vorrei approfondire almeno una buona notizia, una notizia economica per l'America, che ha dominato il fine settimana: una vendita record di aerei. It's a big day at one of America's last great manufacturers. Boeing. Il settore manifatturiero, nella sua espressione aeronautica, la Boeing, ha stabilito un record. Pensate che la Boeing ha lanciato i modelli nuovi 77X nel corso del fine settimana e, in coincidenza con questo lancio, ha annunciato una serie di ordinativi che hanno superato globalmente dal punto di vista di commesse i 95 miliardi di dollari. Dunque una cifra strabiliante, vuol dire che la Boeing ha commesse, aerei da produrre, posti di lavoro garantiti per molti anni. Ma in tutto questo quello che ha colpito di più, quello che dovrebbe in qualche modo destare la nostra attenzione, visto che siamo ancora nel mezzo del dibattito all'Italia, da noi non si riesce a capire come la nostra linea aerea nazionale possa uscire da questa crisi orrida nella quale si trova. Qualcuno tra l'altro continua a insistere che forse l'unica soluzione possibile è quella di fare una qualche fusione, una qualche operazione con le Ferrovie dello Stato, che sono gestite e funzionano parecchio bene. Ma vi dicevo, ha colpito che una linea aerea nuova, quella degli Emirati, che è nata soltanto 5 anni fa e in continua espansione, ha ordinato soltanto ieri 150 Boeing 777 per un valore complessivo di 76 miliardi di dollari. Sempre ieri la Emirates ha anche comunicato di voler ordinare altri 50 Airbus A380 per 23 miliardi di dollari, portando per quello specifico modello il numero di ordini a 140. Dunque è un gruppo, questo del Dubai, che rappresenta la più grande compagnia aerea internazionale per capacità di flotta. E cerchiamo di immaginare anche che potenziale, che capacità di mobilitazione di capitali che hanno nel momento in cui comprano aerei soltanto ieri, come vi dicevo, per 76 miliardi di dollari. Ma non è stata la Emirates da sola, la Qatar Airways ha firmato un ordine per 50 Boeing 777X, 19 miliardi di dollari, la Etihad Airways degli Emirati Arabi Uniti ha comprato altri 25 aerei, sempre 777X, la Lufthansa, l'unica europea, ne ha ordinati 34. Ecco, questo per dire che il settore aereo va avanti, è un settore che, se ben gestito, gestito in modo oculato, può evidentemente fare dei profitti, altrimenti non ci sarebbero investimenti di queste proporzioni. Si è parlato di un accordo dell'Italia con una delle linee aeree del Golfo, e però abbiamo una legge in Europa che impedisce un ingresso maggioritario per una compagnia aerea che non sia di bandiera europea. Beh, è un problema questo che dovrà trovare soluzione, chissà che l'ispirazione non venga da questa largesse, da questa grande disponibilità di soldi di queste compagnie che hanno accumulato, macinato ordini stratosferici. Un'altra curiosità: il Dreamliner 787 ha ricevuto il 1000° ordine proprio ieri. Сегодня с космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз». На ее борту был первый спутник «ГЛОНАСС» нового поколения. Этот запуск изначально был намечен на 24 февраля, но дважды переносился из-за технических проблем. Vi ho fatto ascoltare l'annuncio da una televisione russa che introduce il GLONASS. Il GLONASS è un concorrente del sistema GPS americano. La Russia ha deciso di intervenire perché ritiene che l'America, avendo il controllo di questa tecnologia, potrebbe avvantaggiarsene anche dal punto di vista militare e dunque vuole avere un suo sistema alternativo, ritiene che ci debba essere concorrenza, ha già sistemato delle antenne in vari paesi, per esempio in Brasile, e adesso chiede di sistemare delle antenne negli Stati Uniti. Attenzione, gli Stati Uniti hanno anche loro antenne in varie parti del mondo, ma non in Russia. Su questo si è aperta una polemica, chiudo su questo perché è un problema che riguarderà poi direttamente Barack Obama, che cerca di ricucire con la Russia, ma fino a che punto si può ricucire? Beh, fino a quando non si mette a rischio la sicurezza nazionale. La CIA e il Pentagono hanno avvertito il presidente che concedere la possibilità di installare queste antenne potrebbe essere una grave minaccia per la sicurezza americana, perché queste antenne 5 o 6 dislocate in territorio americano potrebbero essere sfruttate dalla Russia da un punto di vista militare. Dunque, le questioni di spionaggio continuano a dominare, ma è una nuova grana, un nuovo problema per il presidente in questa apertura di settimana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Abbiamo parlato di Boeing, di aerei 777X, aerei che sono in grado di volare per 17.000 chilometri senza fermarsi mai. Andiamo indietro nel tempo, Top Gun, piloti di caccia, il film nell'86 è diventato un classico, la colonna sonora Take My Breath Away. Da New York è tutto, Simone ti ripasso la linea, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24. E prima di chiudere ancora un paio di notizie che riguardano il caso Cancellieri. Nessun soggetto, è stato aperto un fascicolo dalla procura di Torino sul caso Cancellieri, ma nessun soggetto è stato iscritto nel registro degli indagati, lo ha fatto sapere il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli, e il fascicolo sarà trasferito alla procura di Roma in quanto territorialmente competente, mentre continuano a infittirsi le voci di probabili dimissioni del ministro. E con questa notizia dunque che chiudiamo effetto giorno, i ringraziamenti: Pietro Lacorte in regia, Luca Cremonese in redazione e in assistenza, come sempre tutta la redazione di Radio 24. Vi ricordo i contatti, se volete mi trovate su Twitter Simone Spetia, c'è la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, che mi riprometto sempre, vi dico sempre, la aggiorneremo un po' più spesso, poi non ci si riesce mai, adesso cercheremo piano piano di prendere il ritmo. Un ringraziamento come sempre a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo tra un attimo con il giornale radio e poi alle 13 domani torna come sempre Effetto Giorno.